Leggo che a Bolzano i neofascisti di AN, che hanno indetto e purtroppo vinto un referendum per ridedicare alla vittoria nella prima guerra mondiale una piazza della città, a onta e scorno di quei cittadini sudtirolesi a cui l'evento a cui il nome si riferisce suona piuttosto come una sconfitta, e oggi sostengono di non auspicare altro che il reciproco rispetto tra le diverse componenti linguistiche. C'è naturalmente da dubitarne. Umiliando i cittadini d'origine austriaca nell'unico centro della provincia autonoma in cui gli italiani sono in larga maggioranza, si è chiaramente aperto la strada a ogni possibile rivalsa laddove prevale la popolazione di lingua tedesca. E poi, santi Dio, si può dire di tutto, ma ci sarà pure un limite all'impudenza e all'ipocrisia. Quella piazza era stata intitolata alla pace per esprimere una volontà di riconciliazione che i risultati del referendum hanno come minimo posto in dubbio, ed è inutile fare finta di no. Per citare un'altra causa cara al cuore dei neofascisti, e mica solo a loro, sarebbe lo stesso che sostenere che il rifiuto di restituire l'obbedisco di Aksum ha lo scopo di rendere più cordiali i rapporti tra l'Italia e l'Etiopia. Ma non è questo il punto che intendevo sottoporre alla vostra attenzione. In un suo comizio, l'onorevole Fini, che contro ogni opportunità è andato a Bolzano a perorare una causa della quale, in quanto vicepresidente del Consiglio, avrebbe fatto meglio a tenersi alla larga, ha detto che non si può in ogni caso cancellare la storia. Il che è vero, naturalmente. Anche se strano sentirselo dire da un figuro che, proprio al fatto che la lezione della storia sia stata, se non cancellata, bellamente ignorata, deve le sue fortune politiche. Ma la storia, oltre che ricordarla, bisogna saperla leggere. E non sarà inutile ricordare a chi indugia a questo genere di ricordi che l'esito della Grande Guerra, come la si chiama talvolta, tanto dal punto di vista del contenzioso italo-austriaco quanto da quello più generale degli equilibri europei, non è stata una vittoria per nessuno. Gli imperi centrali hanno conosciuto l'onta della sconfitta militare con tutte le umiliazioni e le amputazioni del caso, ma le potenze dell'intesa non avrebbero tardato di rendersi conto d'essersi avviate, vittoria o no, sulla via della decadenza. Quell'inutile strage, con il senno di poi, potrebbe essere considerata una specie di sanguinoso sacrificio collettivo, quasi un suicidio per la vecchia Europa, la fortezza orgogliosa del XIX secolo che infatti non avrebbe più ritrovato lo splendore di una volta. L'Italia, nel suo piccolo, dopo aver liberato le terre irredente al prezzo di 600.000 morti, meno degli abitanti delle terre irredente, più degli abitanti delle terre irredente, voglio dire, e aver incorporato nei propri confini parecchi cittadini piuttosto refrattaria l'idea, nel senso che italiani non erano, si sarebbe ingolfata in una delle sue crisi peggiori, consegnandosi inerme al fascismo in inquietante parallelo con la sconfitta Germania. E delle molteplici follie del Trattato di Versailles paghiamo ancora oggi le conseguenze in Medio Oriente, nei Balcani e altrove. Ebbene, bene, sono tutti concetti abbastanza noti e dovrebbe conoscerli anche l'onorevole Fini, un uomo politico che, in conseguenza della sovraesposizione del suo capo, può oggi permettersi il lusso di passare per moderato e affidabile. Ma che volete? L'imprinting è sempre l'imprinting e chi è passato per il fascismo deve fare ben altro per liberarsene di quanto ha fatto lui. E poi oggi in sede governativa la pace non è troppo di moda. Ora, quello del referendum di Bolzano è un episodio secondario e periferico, la cui importanza, per ovvi motivi di opportunità, tutti hanno l'interesse a sminuire. Di fatto, sembra che la parola d'ordine nel capoluogo sudtirolese sia quella di sdrammatizzare a quanto più si può, e speriamo in bene. Ma con i venti di guerra che soffiano sul pianeta, forse varrebbe la pena di riflettere sul significato di quella vittoria con le virgolette. E proprio perché non si deve cancellare la storia, che bisogna ascoltare la lezione dei morti della Prima Guerra Mondiale. Yeah. You know, we was talking earlier and I was telling you it's all my life. I feel like life is really just like braided hair. E per finire, chissà se è una pietosa bugia quella per cui il fatto che l'onorevole Fassino non abbia potuto votare contro la legge Cirami sia stato un errore tecnico, un inghippo del pulsante e non quello che nel gergo degli incidenti aerei si chiama comunemente un errore umano. Comunque sia, ammetterete che c'è poco da stare allegri. Oh, il Presidente della Camera ha prevaricato facendo passare una legge cara alla sua maggioranza grazie a un errore elettronico, o il leader del più importante partito d'opposizione non è capace di distinguere il pulsante del sì da quello del no, il che non dovrebbe lasciare molte speranze di ribaltamento a breve degli equilibri politici del Paese. In ogni caso, io non sapevo che in politica esistesse qualche cosa d'analogo a quelle regole della batte chitarella. Le regole della batte chitarella sono rivolte normalmente ai giocatori di scopone. Una di esse, quella che sembra stata applicata da Casini, che si è rifiutato di ripetere la votazione nonostante le proteste di Fassino, è quella secondo cui post cartam io catam non fit misericordia. Dopo aver giocato una carta non la si può più tirare indietro. Non lo sapevo e ne prendo nota. Ma se regole devono esserci, sarà bene richiamarle tutte. Così, non credo che sia il caso di trascurare nella precettistica quell'altra norma del dotto abate che prescrive, se ricordo bene la citazione, qui septes numerari nescite ia iocatum ad nuces, chi non ricorda i sette vada a giocare alle noci. A quel gioco chi non sa pigiare il pulsante giusto farebbe un gran bene a dedicarsi.